Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nell'ultimo mese praticamente ogni giorno abbiamo avuto notizie di violenze sulle donne, violenze di vario tipo, appunto dalle molestie allo stupro ai femminicidi. Non possiamo rimanere a guardare. Eppure purtroppo si continua a rimanere a guardare, perché niente cambia in Italia oggi. Dopo tutte queste violenze di cui abbiamo parlato in questi giorni, di femminicidi, una nuova violenza sessuale e anche un tentato femminicidio su una ragazzina di 15 anni che comunque in condizioni disperate. Parleremo di questo ogni giorno, purtroppo ci troviamo a parlarne. Parleremo anche del... ci collegheremo col Messico, con alcuni nuotatori italiani paralimpici che sono lì, che dovevano affrontare i campionati del mondo, e invece con quello che è successo, insomma, allora è andata anche bene per fortuna, le vittime sono oltre 225. Poi ci collegheremo anche con gli Stati Uniti, c'è Gentiloni che sta parlando, il nostro Presidente del Consiglio all'ONU, sentiamo un passaggio proprio adesso in diretta. Alle sfide della crescita economica, della sicurezza, delle immigrazioni, un progetto che rafforzi il ruolo globale dell'Unione nel mondo, e ce n'è tanto bisogno di un ruolo globale ispirato al multilateralismo, al libero scambio, al rispetto dello Stato di diritto. Insomma, questa storia in fondo riguarda tutti noi, perché un'Unione Europea che riesca a tornare a dare al mondo intero un esempio di solidarietà, di benessere e di fiducia è un contributo allo sviluppo e al progresso di tutto il mondo. Insomma, è sempre questo auspicio, no, che si continua a ripetere, di un'Europa più unita, che abbia un nuovo slancio, un nuovo spirito, che sia collaborativa, che sia un vero continente unito. Insomma, Gentiloni lo sta dicendo ancora una volta oggi all'ONU. Le notizie sono poi tante, adesso ve le racconto in sintesi come sempre. Vi ricordo, per i vostri interventi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Titoli. Alta tensione in Spagna, la polizia arresta 14 funzionari catalani per evitare il referendum per l'indipendenza, scoppia la protesta. Il terremoto in Messico, le vittime sono oltre 200, strage di bambini in una scuola, più di 4 milioni gli edifici senza elettricità, nessun italiano coinvolto, annullati i mondiali paralimpici di nuoto, e poi ci collegheremo in diretta con i nostri atleti. La violenza maschile senza fine sulle donne, a Foggia un uomo spara in faccia alla figlia quindicenne della sua ex e poi si suicida, era già stato denunciato per violenze, la ragazza è gravissima. A Specchia, celebrati i funerali di Noemi, uccisa dal fidanzato, e vicino Bergamo un'operatrice violentata da un migrante. Gentiloni a Palazzo di Vetro, l'avete sentito, il nostro principale obiettivo, dice fra l'altro, è che l'ONU ritorni in Libia. Ryanair annulla l'incontro domani con ENAC, assicura che adempirà però gli obblighi previsti a tutela dei passeggeri. Pugilato, 95 anni, è morto Jack LaMotta, ex campione del mondo dei pesi massimi, denominato Toro Scatenato, che ispirò il film interpretato da Robert De Niro. Calcio, quinta serata del campionato di Serie A, dopo la frenata dell'Inter, Juventus e Napoli tentano l'allungo. Partiamo quindi dalla tensione sempre più alta in Spagna in vista del referendum per l'indipendenza della Catalogna, previsto per il 1 ottobre, ma respinto da Madrid. La Guardia Civile, la polizia spagnola, ha compiuto 22 perquisizioni in sedi del governo catalano, arrestate 14 persone, tra cui due stretti collaboratori del vicepresidente catalano, sequestrate 10 milioni di schede per il voto. Il presidente Puigdemont ha convocato d'urgenza i ministri, la Spagna, dice, ha superato la linea rossa, ha sospeso di fatto, dice ancora il presidente catalano, illegittimamente l'autogoverno della Catalogna. Per il premier Rajoy, premier spagnolo, è l'unica risposta possibile, lo Stato deve reagire, e poi questo ha portato a tafferugli in piazza mentre gli agenti scortavano un dirigente catalano arrestato. Ma perché di queste tensioni? Perché la Catalogna vuole separarsi? Naturalmente è una storia che dura da molto molto tempo, ma anche dopo per esempio la strage degli attentati di Barcellona, cercheremo di capirlo più tardi. Intanto parliamo del terribile terremoto in Messico, si contano i morti nel paese dopo la violentissima scossa di magnitudo 7.1, le vittime sono 225 secondo gli ultimi dati forniti. A Città del Messico almeno 32 bambini sono morti nel crollo di una scuola e una bambina per fortuna viva è stata trovata sotto le macerie in serata. Sono oltre 4 milioni gli edifici senza elettricità, nessun italiano è stato coinvolto. Nel frattempo sono stati annullati i mondiali paralimpici di nuoto e poi vi dicevo dovremo riuscire a raggiungere i nostri giovani atleti in Messico. La violenza maschile senza fine sulle donne. Vicino Foggia un uomo per strada ha sparato in faccia alla figlia quindicenne della sua ex, poi si è suicidato. Era già stato denunciato per violenze dall'ex compagna che aveva lasciato la Puglia per rifugiarsi lontana da lui in Toscana. La ragazza è in gravissime condizioni. Poi ci colleghiamo con la Puglia per gli ultimi aggiornamenti. E intanto in provincia di Lecce, nel pomeriggio, l'ultimo saluto a Noemi, 16 anni, uccisa dal fidanzato 17enne reo confesso. Commosso appello della madre di Noemi in chiesa rivolto ai giovani. Mia figlia, anche se è morta, ha vinto perché lei non aveva l'odio. E non avendo odio, lei non faceva la guerra. E quindi, figlia mia, sei veramente grande. Tu hai preso esempio veramente da noi, da tutto quello che ti abbiamo insegnato. Fino a quando tu non avrai giustizia, non c'è l'odio, ragazzi, no, non ci deve essere l'odio, l'odio non esiste, non ci appartiene l'odio, perché l'odio poi porta alla violenza e la violenza è portata a questo. E in Lombardia un'altra brutta vicenda, un 27enne della Sierra Leone richiedente asilo avrebbe abusato di una giovane operatrice culturale di 26 anni a Fontanella nel Bergamasco. Il fatto è avvenuto ieri all'interno di una cascina che ospita una comunità di richiedenti asilo ed è stato reso noto oggi dal procuratore capo di Bergamo Walter Mapelli. Il giovane ha chiuso la ragazza in un bagno della comunità dove avrebbe poi abusato di lei. La 26enne ha tentato di difendersi richiamando l'attenzione di altri due stranieri richiedenti asilo che sono intervenuti. Intanto a Roma, dopo le ultime aggressioni, si stanno studiando nuove misure per la sicurezza e oggi c'è stata la riunione con la sindaca Raggi. Più videocamere di sicurezza, ma anche un potenziamento dell'illuminazione pubblica e più pattuglie della polizia a cavallo nei parchi. Sono alcune delle misure allo studio a Roma dopo l'allarme per le violenze sessuali degli ultimi giorni. Per la videosorveglianza il Campidoglio ha già stanziato delle risorse, ha fatto sapere la sindaca Virginia Raggi al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza dedicata al tema della violenza contro le donne. A partire dal luglio di questo anno Roma Capitale ha già trovato e stanziato mezzo milione di euro che sarà destinato all'acquisto e all'installazione una prima tranche di telecamere. Dall'inizio dell'anno nella capitale le violenze di genere sono aumentate del 6%, ma gli arresti per questo tipo di reati sono saliti del 70%, ha fatto invece sapere il prefetto Paola Basilone, secondo cui Roma è una città sicura, ma è necessario lavorare per aumentare la percezione di sicurezza dei romani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso l'Assemblea Generale dell'ONU, c'è sempre in diretta la possibilità di ascoltare Gentiloni nel suo discorso, nel suo intervento. La Libia è fondamentale per restituire al Mediterraneo centrale il proprio ruolo storico di motore di civiltà e per contrastare questi rischi e queste minacce. Parla della Libia. La sua stabilizzazione, ne abbiamo parlato stamattina, è un obiettivo prioritario che deve comportare il rifiuto di ogni velleitaria ipotesi di soluzione militare o di divisione del paese. Noi siamo in prima fila in questo impegno e guardiamo con enorme soddisfazione al ritorno in forza delle Nazioni Unite con un ruolo di protagonista in Libia, sul piano politico e sul piano dell'assistenza ai rifugiati e ai migranti. Stati Uniti, la Fed, la Banca Centrale Americana, lascia invariata al 2,1% la crescita del PIL americano prevista per il 2018, ma ritocca a rialzo al 2%, dall'1,9% quella per il 2019. E poi la vicenda Ryanair, l'autorità antitrust ha aperto un procedimento nei confronti della compagnia aerea low cost per presunte pratiche commerciali scorrette, sotto accusa le numerose cancellazioni, come sapete, dei voli che potrebbero configurare una violazione dei doveri di diligenza. E poco fa l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha ricevuto da Ryanair la comunicazione sull'impossibilità del vettore a partecipare alla riunione convocata domani dall'Ente Nazionale appunto per l'Aviazione Civile a causa, dice Ryanair, degli impegni correlati alla gestione delle recenti cancellazioni e la tutela dei diritti dei passeggeri. Ryanair ha confermato comunque la disponibilità all'incontro per i prossimi giorni e ha assicurato che adempirà a tutti gli obblighi previsti dal regolamento comunitario a tutela dei passeggeri. Siamo alla politica italiana, gli attivisti 5 Stelle domani con il voto online sceglieranno il candidato premier. Una corsa, quella per la guida del Movimento 5 Stelle, scontata e che difficilmente potrà riservare delle sorprese, ma che domani vedrà il suo passaggio ufficiale e dunque decisivo. Come annunciato dal blog di Grillo, gli attivisti registrati entro la data del 1 gennaio 2017 si esprimeranno sulla piattaforma Rousseau per scegliere il candidato premier, che sarà anche capo della forza politica e presenterà il programma elettorale alle prossime elezioni. I risultati del voto saranno resi pubblici solo nella serata della proclamazione del vincitore, sabato a Rimini, durante la 3 giorni di Italia 5 Stelle. La lista dei candidati che sarà sottoposta alla votazione degli iscritti è definitiva, è una sfida ad 8, ma il nome di peso è quello di Luigi Di Maio. Domenica non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza per andare al governo di questo paese e anche della regione siciliana. Proprio in Sicilia, dopo lo stop del Tribunale di Palermo alle regionali e problemi per il sindaco pentastellato di Bagheria, Patrizio Cinque, indagato dalla Procura di Termini Imerese in un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti. È un attacco ad orologeria a 2 mesi dal voto, commenta 5, poi precisa: da me nessun attacco alla magistratura. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che riguarda la chikungunya, questa malattia virale portata dalla zanzara. Il laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha isolato il virus che sta causando questa epidemia nel Lazio. Il virus è stato caratterizzato su base molecolare, la sequenza è stata depositata al National Center for Biotechnology Information, National Institute of Health degli Stati Uniti, e a breve sarà accessibile per la comunità scientifica. E poi questa indagine sconcertante: che negli ultimi 14 anni 1 milione di madri italiane, 1 milione negli ultimi 14 anni, ha vissuto un'esperienza di incomprensione o un maltrattamento addirittura durante il travaglio o il parto. A rivelarlo è la prima ricerca nazionale realizzata dalla DOXA per conto dell'Osservatorio sulla violenza ostetrica in Italia. Da voce questa ricerca alle madri, il 21% delle madri con i figli di età da 0 a 14 anni dichiara di aver subito un maltrattamento fisico o verbale durante il primo parto e 4 su 10 raccontano di essere state vittime di azioni lesive della dignità personale. Esperienze traumatiche che, stando alle testimonianze, avrebbero spinto il 6% delle donne a non affrontare una seconda gravidanza, provocando la mancata nascita di 20.000 bambini ogni anno, un numero che pesa ancora di più se si pensa al record negativo tutto italiano del calo delle nascite. Per chiudere lo sport, a 95 anni è morto Jack LaMotta, ex campione del mondo dei pesi massimi, denominato Toro Scatenato, che ispirò il film interpretato da Robert De Niro e che ha anche intervistato anni fa il nostro Dario Ricci, che poi ci parlerà anche di tutta la Serie A stasera. Caro Dario. Eccoci qua, pesi medi. Jack LaMotta, avevo sbagliato sulla bilancia. Togliamogli qualche chilo che sì, non fa mai male, ma insomma, un mito davvero. Tra l'altro, sul nostro sito c'è un reportage proprio a lui dedicato, quindi si può ascoltare sempre dopo effetto notte. Però, naturalmente. Ecco. Parlavamo di Serie A, però, giusto, Roberta? Sì. Serie A in campo per la quinta giornata, la Roma ha già fatto il suo, liquidando il Benevento per 4-0 alle 18, la doppietta di Dzeko, ma siamo intorno alla mezz'ora su tutti i campi. Allora, l'Atalanta è in vantaggio per 2-0 sul Crotone, si è sbloccato in questo istante anche il big match di giornata con la Lazio in vantaggio per 1-0 sul Napoli, 1-0 anche del Milan sulla SPAL con il rigore di Rodriguez, 2-0 esterno del Torino a Udine, ancora sullo 0-0 Juventus-Fiorentina, Genoa-Chievo, Cagliari-Sassuolo, col Sassuolo che pochi istanti fa ha fallito un calcio di rigore, e anche Verona-Sampdoria. Grazie Dario Ricci, e poi naturalmente ci risentiremo per sapere come proseguono le partite. Noi proseguiamo, però prima ci sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando. Intanto leggo i vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666. Diop da Torino scrive: ciao Roberta, volevo chiedere, oggi gli italiani che parlano sempre dei paesi musulmani a proposito di donne che dicono che non hanno diritti, però anche se fosse così, gli musulmani non sparano alle loro donne, non le uccidono, anzi è un guaio se si parla male di loro. In realtà Diop, diciamo, noi già ce l'abbiamo, i nostri delinquenti, i nostri uomini maschilisti, ce ne sono moltissimi, altrimenti non assisteremo a quello che succede tutti i giorni. Ci sono anche stranieri, diciamo, che fanno una bella somma insieme, però per quanto mi riguarda, per quel che so, insomma, diciamo, nella cultura musulmana non mi sembra che le donne abbiano tantissimi diritti, si possono vantare chissà quali diritti liberali. Ci fermiamo momentaneamente, diciamo, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. Moltissime le notizie, cerchiamo di, dopo questa sintesi, di raccontarne alcune in particolare con gli ospiti, come sempre cerchiamo di approfondirle. Vi ricordo quali sono tra pochissimo quelle più importanti, perché non tutti accendono puntualmente alle 21, ricordatevi, siate puntuali per ascoltare Effetto Notte sino alle 22. Vi ricordo, per i vostri messaggi, 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Giovanni dice: Roberta, quando dici la violenza maschile non stai facendo di tutte le erbe un fascio, ricorda che i reati sono sempre ad personam. Purtroppo no, questo è un fenomeno diffuso, è una questione culturale molto ancora radicata nel nostro paese. Poi qualcuno dice: ma guardiamo gli altri paesi, ma io sto parlando di paesi occidentali, di paesi cosiddetti civili e del paese in cui noi viviamo e vogliamo vivere tutti liberi e con pari dignità. Mi sembra che con tutte queste violenze, perché poi ne abbiamo parlato ieri con Linda Laura Sabbadini, no? Ex Istat, è una statistica che dice che soltanto il 12% tra l'altro di queste violenze vengono denunciate. Pensate quindi quant'è il sommerso. E vi dicevo che anche delle agenzie dell'ANSA e le altre che battono costantemente dispacci, sapete di quante violenze, di maltrattamenti, che veniamo a conoscenza e che non possiamo raccontare, se no ci sarebbe da raccontare tutto il giorno, e sono sempre cose però che vengono alla luce. Immaginatevi le altre. Allora, vi dicevo le notizie principali. Referendum in Catalogna, Madrid manda la Guardia Civil, sequestrate 10 milioni di schede, la protesta in piazza. E poi il Messico in ginocchio dopo il terremoto, oltre 200 morti, strage di bambini nella scuola crollata, una per fortuna è estratta viva. Gentiloni all'ONU, le sfide non si risolvono con i muri. Sentiamo ancora un passaggio, sempre in diretta, sta parlando all'ONU. Evidentemente anche Gentiloni. La riforma che consenta di rendere il Consiglio di sicurezza maggiormente democratico, efficace e rappresentativo dell'intera membership dell'ONU, perché questa membership dall'istituzione delle Nazioni Unite si è nel frattempo, quindi riforme all'interno delle Nazioni Unite, poi ha detto dell'importanza che l'ONU torni in Libia, e anche ha rilanciato lo spirito europeo. E poi questa notizia: un uomo spara in viso a una quindicenne nel Foggiano, poi si uccide, era l'ex compagno della madre, la ragazza è gravissima. Movimento 5 Stelle alle primarie online, domani votano, intanto una tegola sul sindaco di Bagheria che è indagato. Caos, cancellazione Ryanair, l'antitrust apre un'istruttoria, braccio di ferro tra l'azienda e l'ente nazionale civile, ultimatum ai piloti. E poi addio a Jack LaMotta, toro scatenato sul ring e nella vita, leggenda della box. In questa legislatura noi ci siamo occupati del tema della violenza sulle donne, ma evidentemente c'è ancora molto da fare. E allora io rivolgo un appello alle forze politiche perché si approvi in questa legislatura un provvedimento che aumenti la protezione, la tutela delle donne, così come si mettano in atto le misure interdittive appunto per gli uomini violenti che si sono macchiati di minacce già e che già hanno dato segno di voler far del male alle donne. Questo è l'appello della Presidente della Camera Boldrini oggi a proposito di tutte queste violenze, che è stato accolto, ho visto, da molte parlamentari, da MDP, dal PD, dalla Sinistra Italiana, dal Movimento 5 Stelle. Si può dire uomini che odiano le donne, ne abbiamo in abbondanza nel nostro paese, che siano non strani o immigrati, insomma poco fa la differenza, sempre di uomini che odiano le donne si tratta. Di quante violenze sulle donne abbiamo parlato in questi giorni, femminicidi, stupri, che non se ne tiene neanche più il conto. Oggi ci sono stati i funerali di Noemi, la ragazzina di 16 anni che è stata uccisa in Puglia dal fidanzato di 17 anni. Poi le tre violenze sessuali nell'arco di 10 giorni a Roma. La dottoressa violentata ieri vicino Catania. Oggi vicino Bergamo è stato fermato un richiedente asilo per violenza sessuale su un'operatrice di 26 anni. E per tenere alta la media delle azioni criminali prodotte da una cultura maschilista, distruttiva, ancora molto presente nel nostro paese, la notizia della ragazzina quindicenne vicino Foggia, cui un uomo ha sparato in faccia in mezzo alla strada da distanza molto ravvicinata. Lei è in gravissime condizioni, lui poi è stato ritrovato il suo cadavere, si sarebbe suicidato, e questo parrebbe sia stata da parte sua una vendetta nei confronti della ex, che già lo aveva denunciato più volte per violenza e si era rifugiata in un'altra regione. Ne voglio parlare con Filippo Santigliano, che è vice caposervizio della Gazzetta del Mezzogiorno Foggia. Buonasera Filippo. Buonasera Roberta. Quindi ho sintetizzato un po' questa ennesima una storia molto triste che si è consumata in questo piccolo comune del Gargano, del Gargano interno, non quello Mare e Sole, Ischitella, che era noto fino a questo momento noto per aver dato i natali al più grande, forse uno dei più grandi illuministi italiani, Piero Giannone. Invece adesso passa alla cronaca e alla storia per questo terribile fatto di cronaca che ha coinvolto, una suo malgrado, una minorenne, una ragazzina di 15 anni che ha avuto soltanto, come dire, la colpa di trovarsi al centro di una turbolenta relazione tra la madre e l'ex compagno. Una storia che finisce appunto con la violenza, un colpo di pistola che ha colpito la ragazzina sotto l'occhio sinistro, adesso è in coma farmacologico all'azienda ospedaliera universitaria di Foggia. I medici non hanno ancora deciso se intervenire o meno, ovviamente stanno cercando di capire che cosa fare, perché si tratta di un intervento molto molto delicato. Al momento la ragazza non è stata ancora operata, ecco, lo possiamo dire in diretta e precisarlo. Comunque una vicenda di violenza terribile che poi ha avuto una postilla, un epilogo ancora più tragico, con il suicidio di quest'uomo che era stato, va ricordato, già denunciato dall'ex compagna ai carabinieri. E i carabinieri di Foggia hanno fatto sapere che nel 2016 avevano operato alcune perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di questo soggetto ritenuto, come dire, violento, ma ed erano anche arrivati ad un suo deferimento, ma solo per il porto illegale di un coltello a serramanico, nulla di più. Certo, però le verità, tu mi insegni, le verità delle indagini, le verità processuali sono sempre diverse dalle verità dei fatti, quindi probabilmente forse bisognava porre un po' di ascolto e di attenzione in più alle parole, all'urlo, alla disperazione di questa donna che è stata costretta ad andare via. Poi ci sono di mezzo i figli e lì inizia tutta un'altra, come dire, un'altra storia, perché i figli sono stati affidati ai genitori di lei e purtroppo è accaduto quello che è accaduto. Probabilmente potevano essere meglio protetti, ma questa è un'ipotesi, potevano essere collocati in una casa famiglia fuori dal comunque Filippo paese. Ancora una volta è pazzesco che sia la donna che debba rifugiarsi chissà dove, lasciare tutto, lasciare pure i figli, no? È veramente è sconcertante. Noi abbiamo ascoltato un collega, ha ascoltato anche il sindaco di Ischitella, che ha parlato di una personalità contorta, ovviamente riferendosi al Di Paola, che al momento è il presunto, come dire, autore dell'omicidio, del tentato omicidio, ma si tratta ovviamente di, non ci sono dubbi che sia lui. Lo stesso sindaco aveva parlato che questo soggetto ad agosto aveva tentato anche il suicidio e che avesse problemi psicologici abbastanza seri, però hai ragione tu, comunque una donna è stata costretta a cambiare aria, ad andare via dai suoi affetti, probabilmente dalla sua famiglia, dei suoi figli. Io ho letto qualche sua dichiarazione, si vede insomma che c'è tanta rabbia, ecco, nelle parole di questa donna per quello che è accaduto. Filippo, per chiudere, sembra proprio che dalle prime ricostruzioni che lui avesse chiesto alla figlia quindicenne della sua ex dov'era, lei non l'ha voluto dire, questa è stata poi pare no, che la reazione. Sia questo. Cioè, in questa storia, Roberta, c'è una testimone importante che ha fatto, come dire, è riuscita a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, che è un'amica di questa ragazza che quella che ha dato, come dire, i primi elementi, e pare che sia accaduto così, che quest'uomo abbia chiesto alla figlia di il luogo dove era la mamma, e poi ha pensato bene lui di vendicarsi in maniera così violenta, brutale, bestiale. Grazie Filippo Santigliano della Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Filippo, buon lavoro. E adesso colleghiamoci con il Messico, stiamo cercando di raggiungere anche i giovani nuotatori paralimpici che erano lì, 13 ragazze e ragazzi della nazionale italiana che dovevano affrontare i campionati del mondo, però con quello che è successo ovviamente, addirittura hanno parlato dell'esplosione della piscina in cui si allenavano. Ma ci colleghiamo intanto con Federico Mastrogiovanni, che è giornalista freelance che sta di base a Città del Messico. Federico. Buonasera. Ciao Federico. Ciao. Il terremoto è stato devastante, lo abbiamo detto, oltre 200 morti, c'è stata questa strage anche di bambini, almeno 32, no? In una scuola crollata a Città del Messico. L'unica notizia positiva è che è stata estratta in serata una bambina ancora viva di 7 anni, no? E poco però fa è stata estratta, esatto, sì. Ha colpito oltre a Città del Messico anche diverse altre città, ci sono tanti edifici sgretolati, milioni di persone senza elettricità. Che situazione stai vivendo anche tu, Federico, che cosa vedi? È stata una brutta scossa, tra l'altro appunto, come dicevi, molto vicina a Città del Messico, l'epicentro. Città del Messico che generalmente è preparata per i sismi e per i terremoti e considerando l'entità e la potenza di questo terremoto, I danni sono anche stati relativamente pochi, insomma poco più di 200 persone per il momento, 217 persone confermate in tutti i tre stati coinvolti, sono Città del Messico appunto, lo stato di Morelos e lo stato di Puebla, che sono qui vicino alla città, nella parte sud di Città del Messico. La città è in una situazione ancora piuttosto caotica. Ci sono molte zone della città che sono inagibili, gli aiuti sono stati abbastanza, da parte diciamo gli aiuti istituzionali sono stati abbastanza lenti in alcuni casi, però c'è stata una risposta invece molto positiva e molto partecipata da parte della popolazione civile, della protezione civile e di gruppi come per esempio i Topos, che sono le talpe di soccorritori, che sono le talpe famosi a Città del Messico per aver fatto i soccorsi a Tlatelolco esattamente 32 anni fa. Nel 1985, no? Che sì. Poi era avvenuto nello stesso giorno, questa coincidenza veramente pazzesca, il 19 settembre, inquietante. Sì. Senti, fra l'altro mi sembra che proprio lì a Città del Messico stessero facendo una simulazione antisismica, no? Nel caso. Sì, a partire proprio dal terremoto dell'85, ogni 19 settembre in tutti gli edifici pubblici, nelle scuole si fa un simulacro, quindi una simulazione per poter appunto preparare le persone a evacuare gli edifici, a gestire un eventuale sisma, si usa questa data per poter fare queste esercitazioni, quindi tra l'altro i bambini nelle scuole avevano appena fatto l'esercitazione. Anche mio figlio l'ha fatta 2 ore prima e poi sono dovuti scappare veramente. Comunque tu dici il Messico appunto proprio per questo è già preparato da tanti anni a queste catastrofi naturali, al terremoto, però evidentemente qualcosa ancora c'è da fare. È vero che 7.1 noi ci distruggerebbe insomma, no? Qui in Italia. Sì, diciamo che molti edifici in realtà la cosa positiva è che la gran parte degli edifici hanno retto. Ci sono gli edifici precedenti agli anni 70 in realtà che sono più sicuri perché hanno appunto dimostrato di poter reggere terremoti, e quelli invece più recenti, che però non hanno rispettato le norme, ovviamente sono più vulnerabili. Quello che dicevo sulla preparazione è che molte persone sanno cosa fare al momento di andare ad aiutare nelle varie fasi, quindi c'è un'organizzazione piuttosto consapevole nel caso di un sisma di questa entità, di quello che bisogna fare, cosa bisogna organizzare per poter portare aiuti alimentari, di medicinali. Diciamo che c'è una disciplina nel caos generale che è abbastanza importante e positiva, che permette di svolgere al meglio l'operazione. Federico, scusami, c'è Simone Barlam che saluto. Simone, ciao. Ciao a tutti. Ciao Simone. Simone fa parte della nazionale di nuotatori paralimpici che eravate lì a Città del Messico per allenarvi, perché poi tra qualche giorno sarebbero partiti i campionati, no? Di nuoto. Simone, esatto, sì, tu sei lì con tutta la squadra, siete in 13 tra ragazze e ragazzi, e adesso dovete tornare indietro, insomma. Come è stata questa, come avete vissuto questa catastrofe? Fortunatamente, appunto, sapevamo come muoverci, sapevamo dove erano le vie di uscita d'emergenza, perché avevamo fatto la mattina stessa la prova di evacuazione e poi mentre eravamo a pranzo nella mensa, appunto, è avvenuto il terremoto, siamo usciti tutti e fortunatamente il centro di preparazione paralimpica dove siamo è abbastanza sicuro, perché è solo su due piani, le strutture sono antisismiche, perciò siamo andati in un piazzale, abbiamo aspettato che tutto si calmasse e la struttura qualche danno, ma fortunatamente è ancora in piedi e noi stiamo tutti bene. Meno male, almeno a voi è andata bene, insomma, vi siete presi un gran spavento, immagino, Simone, però hai detto avevate fatto proprio nella mattinata l'esercitazione, per cui sapevate, esatto, cosa fare. Gli altri stanno tutti bene, sono tutti tranquilli. Come, quando tornerete? Visto che a danni anche forti l'aeroporto, vi hanno detto come tornerete, quando? Sì. Probabilmente torneremo venerdì con un aereo a Roma, torneremo a Roma, perché hanno detto sì che l'aeroporto è sempre in una situazione un po' complicata, ma dovrebbe essere tornato abbastanza al suo normale flusso, diciamo. Ma allora, Simone, felici di sapere che state bene, tu e tutta la squadra e gli allenatori, vi aspettiamo per il vostro ritorno. Simone Barlam, tra l'altro, sì, figlio di un nostro caro collega del Sole 24 Ore. Grazie Simone. Grazie Simone. A voi. Ciao e buona continuazione. Ciao. Per quello che potete, buon ritorno soprattutto. Ci fermiamo in questo momento, ci prendiamo una pausa per i vostri messaggi. Continuate sulla pagina di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Venerdì 22 settembre, annunciazione, Radio 24 dalle 14 alle 15.30, puntata extra large di Tutti i Convocati. Avremo la Coppa dei Campioni, lei, proprio lei, sul tavolo. Ovviamente potete vederla diretta Facebook anche per questo evento eccezionale. Ce la porteranno per mano due che l'hanno vinta. Eh sì, Cafu e Chivu saranno i nostri super ospiti, ma ovviamente avremo anche Giovanni Capuano, avremo De Luca dietro al vetro e poi Dario Ricci che fisicamente ci porterà la Coppa, sarà proprio lui l'uomo che ce la porterà, e ovviamente tutti i vostri commenti, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle più belle, quelle più brutte, quelle dolci, quelle amare, quelle da gufi, perché c'è anche questo della Champions. Io mi faccio anche la barba per l'occasione. Io no. Vabbè, tu te la tieni. Dov'è la Coppa? A Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, se volete, Roberta Giordano. Ringrazio Maria che dice sui femminicidi, sulla violenza contro le donne, tu sei un opinion leader. Non sono per niente, dico semplicemente almeno parliamone, perché soltanto parlandone e continuando anche a sollevare il problema, che almeno le coscienze, diciamo, la coscienza collettiva ne è informata. Poi il passo ad agire concretamente è un altro, e certamente non è che lo può fare una sola persona al microfono o poche persone. Qui ci vuole la volontà anche di tutti, uomini e donne insieme. Vi ricordo tra poco quali sono le notizie principali, che vi ho ricordato più volte, ma dopo una pausa magari qualcuno l'ha acceso puntualmente alle 21, e tra poco cambiamo argomento, andiamo sulle tensioni in Spagna. Questo è infatti uno dei fatti principali di oggi, per il referendum della Catalogna e poi il terremoto in Messico di cui abbiamo appena parlato. Le vittime sono oltre 200, strage di bambini in una scuola, più di 4 milioni gli edifici senza elettricità, non c'è nessun italiano coinvolto. E poi la violenza maschile senza fine sulle donne. A Foggia un uomo spara in faccia alla figlia 15enne della sua ex, poi si suicida. Era già stato denunciato più volte, la ragazza è gravissima, e a Specchia sono stati celebrati i funerali di Noemi, uccisa dal fidanzato. E vicino Bergamo un'operatrice violentata da un migrante. Gentiloni a Palazzo di Vetro, l'avete sentito, il nostro principale obiettivo, ha detto il Presidente del Consiglio, è che l'ONU torni in Libia. E poi pugilato, a 95 anni è morto Jack LaMotta, ex campione del mondo per i pesi medi, denominato Toro Scatenato, che ispirò il film interpretato da Robert De Niro. Dicevamo quindi della situazione di grave tensione in Spagna, tensione altissima in vista del referendum del prossimo 1 ottobre per l'indipendenza della Catalogna, cosa che Madrid vuole osteggiare in tutti i modi, che non è assolutamente riconosciuto da Madrid. Stamattina gli agenti della Guardia Civil, della Gendarmeria, della Polizia Spagnola, hanno arrestato il braccio destro del vicepresidente catalano insieme ad altri 13 persone, tra cui ci sono funzionari esponenti del governo regionale che sono considerati i principali organizzatori di questo referendum. Tra l'altro la Catalogna è una regione nord-orientale della Spagna e ha già da molto tempo una sua autonomia, un suo parlamento, però da tempo chiede di fare un referendum per avere definitivamente l'indipendenza. Sono state sequestrate da parte della polizia spagnola 10 milioni di tessere elettorali. Dopo gli arresti si sono radunate nelle strade migliaia di persone per protestare, si temono scontri, già qualcosa c'è stato, ma quello che a questo punto ci si chiede è perché questa spinta autonomista, indipendentista così forte da parte della Catalogna, e in particolare anche dopo quello che è successo a Barcellona, che è la capitale della Catalogna, ad agosto, con quella strage terribile, questo attentato dell'ISIS, e si pensava forse che emotivamente magari le persone ritrovassero di nuovo uno slancio di unità, un nuovo spirito di una Spagna unita. Invece sembra che questa cosa abbia acuito maggiormente questa fuga centrifuga. Ne parliamo con Matteo Villa, che è ricercatore dell'ISPI per l'area Europa. Matteo Villa, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera a te. Quindi a queste domande come si risponde? Intanto da dove parte questo desiderio così forte della Catalogna di staccarsi? Ma è un desiderio che si è acuito nel tempo in parte per errori di tutti, direi, cioè per un estremismo quasi senza sbocchi del governo catalano, di tutti i governi catalani che si sono succeduti negli ultimi anni, e in più però con, diciamo, Madrid, il governo centrale, che spesso non ha fatto le concessioni che si sarebbero potute fare. Basta confrontare quello che sta succedendo adesso con il referendum scozzese del 2014, una situazione non del tutto simile, perché alla fine la Catalogna è una regione molto ricca, contribuisce per il 20% al PIL spagnolo, e inoltre in realtà dà più trasferimenti fiscali rispetto a quelli che riceve il governo centrale, mentre la Scozia ne riceve di più. Però comunque il referendum sull'indipendenza scozzese alla fine si è concluso con un vogliamo restare nel Regno Unito per il 60%, perché alla fine le concessioni che il partito indipendentista scozzese chiedeva alla fine sono arrivate da Londra. Diversamente Madrid ha fatto ben poco, e quindi alla fine anche quello che poteva fare, diciamo, negli anni scorsi, trincerandosi dietro la crisi economica, non l'ha fatto, non ha dato più autonomia, e quindi si arriva un po' allo scontro frontale. Ma erano, diciamo, concessioni quindi fattibili, praticabili, queste richieste da Catalogna? Ma sicuramente c'è stata un po' di sfortuna, nel senso che le concessioni sono state richieste nel 2012. Di fatto era il momento della recessione più grande, era il momento in cui l'austerity più picchiava in Spagna. Nel 2013, ci ricorderemo tutti, alla fine addirittura il fondo salva stati dell'Europa era intervenuto per salvare le banche spagnole, quindi non è che si stesse benissimo. Di fatto però nel 2012 l'autonomia fiscale chiesta dalla Catalogna sembrava un po' più, diciamo, un primo grimaldello, però non sembrava avrebbe avuto grandi effetti. E poi ovviamente nel momento in cui Madrid ha detto di no, c'è stata una sorta di escalation, nel senso che la Catalogna ha iniziato a chiedere ancora di più e Madrid non poteva che negare maggiori competenze. Quindi siamo arrivati alla situazione che vediamo scontro oggi. Scontro proprio tra Barcellona e Madrid. Vedevo che le regole definite dalla Costituzione spagnola post-franchista parlano di una Spagna indissolubile, no? Quindi per questo Madrid continua a respingere una eventuale indipendenza. Il 2 ottobre sarebbe consultivo questo referendum. Mi pare che già ce n'era stato uno, forse due o tre anni fa, l'80% dei cittadini della Catalogna, che ha non solo una sua identità forte di cultura, di storia, anche una lingua, la lingua catalana, no? Cioè, quindi è proprio quasi una regione a sé stante. Assolutamente, quello che citi giustamente è un po', diciamo, l'inghippo che troviamo sempre nelle costituzioni diciamo centraliste. È normale, una costituzione cerca di tutelare il proprio Stato, quindi per forza poi alla fine, diciamo, in termini di legge è difficile arrivare al referendum sull'indipendenza. Quello che è successo due anni fa alla fine è simile a quello che è successo oggi, cioè il referendum era stato annullato, anzi il Tribunale Costituzionale aveva detto no, non si fa, e allora alla fine si era, diciamo, cambiato il nome al referendum. Quello che dici tu giustamente era l'80% di chi era andato al voto aveva votato sì a favore dell'indipendenza, però ricordiamoci l'affluenza era stata molto bassa, e anche adesso se andiamo a vedere i sondaggi bassa l'affluenza? Sì? sì 30%, 35%, e adesso se guardiamo i sondaggi siamo lì, l'intera popolazione è divisa, chi sicuramente vuole andare a votare è per l'80% a favore, quindi insomma è comunque una situazione molto spaccata e il governo regionale ci marcia molto. Vedremo come proseguirà, perché appunto la tensione è sempre più alta, le proteste continuano, vedremo come sarà risolto questo braccio di ferro. Grazie intanto a Matteo Villa. Speriamo pacificamente. Matteo Villa dell'ISPI. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti le avete sentite, abbiamo appena parlato della tensione altissima che c'è in Spagna per questo referendum della Catalogna che è previsto per il prossimo 1 ottobre ma che Madrid non vuole assolutamente riconoscere, poi il terremoto in Messico con oltre 200 vittime, nessun italiano coinvolto, le violenze sulle donne, ancora uno stupro oggi nel Bergamasco e poi in Puglia una ragazzina di 15 anni a cui un uomo ha sparato in faccia. Era la figlia della ex, poi lui si sarebbe suicidato. E poi per il pugilato la morte di Jack LaMotta, 95 anni, ex campione del mondo dei pesi medi, denominato Toro Scatenato. Ora ci colleghiamo con il nostro Marco Valsania al Palazzo dell'ONU da New York. Caro Marco, buongiorno. Buonasera. A te, buongiorno a te, tu dici buonasera, io dico buongiorno a te, visto il fuso orario. Oggi è stato un po' il giorno, almeno per quello che ci riguarda. Ieri ha parlato Trump, ha mostrato i muscoli, ha continuato a ribadire America first, l'America prima di tutto, ha detto che a proposito della crisi nordcoreana, se Pyongyang dovesse continuare a provocare, anzi ad agire addirittura, l'America la distruggerà. Oggi, e poi ha parlato appunto ha continuato a rivendicare questa centralità di superpotenza degli Stati Uniti. Oggi Gentiloni invece ha voluto sottolineare soprattutto un multilateralismo, no? Quindi un'Europa più coinvolta nelle grandi sfide e poi la richiesta all'ONU di ritornare in Libia. Esatto, direi che sì, i toni sono diplomatici ma non potrebbero essere più diversi e contrastanti. All'America first, ecco, il Gentiloni ha sicuramente contrapposto un world first, insomma Europa e mondo innanzitutto, quindi cooperazione e multilateralismo come strumento, come strategia, come approccio per affrontare sfide che sono appunto transnazionali, che travalicano i confini, dalla sfida dei migranti a quella del clima, a quella appunto anche della Libia o della Corea del Nord. Quindi diciamo un Gentiloni schierato in prima fila come l'Unione Europea, diciamo con l'ONU e con un approccio multilaterale per la soluzione dei problemi. Sulla Libia, come ricordavi tu, in particolare per l'Italia una forte priorità, una priorità riconosciuta anche dagli alleati, priorità alla stabilizzazione, all'obiettivo di stabilizzazione della Libia e un invito, un appello, una pressione sull'ONU perché aumenti, rafforzi la sua presenza sulla crisi libica proprio con appunto l'obiettivo di di riuscire a facilitare, a stimolare una stabilizzazione del paese e dei suoi drammi. Ci sono altri interventi, Marco, oggi sono stati altri interventi importanti da segnalare? Sì, sono oggi c'è stato anche l'intervento di Theresa May, c'è stato l'intervento anche del rappresentante iraniano, però diciamo che ancora il clima è rimasto così dominato dagli strascichi dell'intervento di Donald Trump, del debutto di Donald Trump, appunto del suo America First, e che anche se ha tenuto aperti così ponti per la cooperazione, ma una cooperazione così fatta su criteri molto molto americani, basata su a suo avviso sulla difesa degli interessi nazionali, ecco, dove questo poi potrà portare concretamente in termini di appunto multilateralismo e cooperazione internazionale resta tutto da dimostrare, da vedere. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. A voi, grazie. Ciao, buon lavoro. E ritorniamo da Dario Ricci, che ci dice della Serie A, le partite come stanno andando, Dario? Roberta, mi dai la linea proprio quando su tutti i campi siamo intorno al 53esimo di gioco. Da pochi istanti la Juventus è passata in vantaggio sulla Fiorentina, il cross dalla destra di Cuadrado, pallone sul secondo palo, Mandzukic bravissimo in tuffo a battere Sportiello, a siglare l'1-0 che in questo momento regalerebbe ai bianconeri la guida solitaria della Serie A. Perché? Perché l'Inter, lo sappiamo, ha pareggiato ieri 1-1 col Bologna, e il Napoli sta perdendo nel big match dell'Olimpico con la Lazio 1-0 per i biancocelesti. Finora decide il gol di De Vrij al 30esimo. Gli altri risultati, ricordando sempre il successo della Roma per 4-0 sul Benevento, Atalanta in vantaggio per 3-0 sul Crotone, 0-0 tra Cagliari, Sassuolo e Genoa e Chievo, il Milan è in vantaggio per 1-0 sulla Spalla San Siro, decide finora il rigore di Rodriguez per fallo di Gomis su Kalinic, 2-1 del Torino a Udine, Udinese che ha accorciato pochi istanti fa su calcio di rigore le distanze, 0-0 ancora al 52esimo al Bentegodi tra Verona e Sampdoria. Grazie Dario Ricci di tutto questo riepilogo, noi ci risentiamo brevemente alle 22.